sereni, quei tuoi occhi belli, quando alzi le braccia e tiri su i capelli. Se poi sorridi, mi apri grandi cieli dentro. Sono bianche autostrade, le tue gambe chiare, i tuoi piedi due alghe che abbandona il mare. E le tue braccia, due fili d'erba in mezzo al verde. Io ti accarezzo e sento che sei tutta quanta mia. Ma che faccia da schiaffi quando sei arrabbiata, stringi forte le labbra se ti bacio piano, nascondi il viso tra le tue mani e poi mi mandi sempre via. Ma che faccia da schiaffi quando sei arrabbiata, sulle suona fino al mento e poi quegli occhi fondi si fanno grandi, mi metti il braccio malizioso e cedo sempre io. I capelli di sfiga sciolti sulle spalle, venature di foglia sopra la tua pelle. Tu mi sorridi e spettinata come sei, le mie carezze adesso tu le vuoi. Ma che faccia da schiaffi quando sei arrabbiata, stringi forte le labbra se ti bacio piano, nascondi il viso tra le tue mani e poi mi mandi sempre via. Ma che faccia da schiaffi quando sei arrabbiata,